Lavoratori a voi, diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte. Che per amor di voi sfidò la morte. A te, Caserio Ardea, nella pupilla delle vendette umane la scintilla. E dalla plebe che donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. Eri nello splendore della vita e non vedesti che notte infinita, la notte dei dolori e della fame che incombe sull'immenso uman carname e ti levasti in atto di dolore, d'ignoti strazi altier vendicatore. E t'avventasti tu, sì buono e mite, a scuoter l'alme stanche ed avvilite. Tremarono i potenti all'atto fiero e insidie tesero al pensiero, ma il popolo a cui tutto donasti non ti comprese pur tu non piegasti e i tuoi 20 anni una ferata donasti al mondo dalla ghigliottina, al mondo la tua grand'alma pia, alto gridando viva l'anarchia. Dormi, Caserio, entro la fredda donde ruggire udrai la